Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti, partiamo. Colesterolo, trigliceridi e glicemia. Occhio ai valori. Suggerimenti per farli tornare nella norma. Colluttori. Sì, no e nel caso quali? Influenza. È il suo momento. Eccoci a noi allora. Se avete fatto di recente degli esami del sangue, qualche valore sballato, chiamateci 800 24 0024. Se avete il colesterolo buono un po' basso, oppure i trigliceridi fuori norma, oppure a preoccuparvi è il valore della glicemia, chiamateci perché valuteremo insieme la situazione e cercheremo di suggerirvi delle indicazioni per farli tornare nella norma. Credo però che questa possa essere anche una buona occasione per chiarirci un po' le idee e toglierci magari eventuali timori. Ci sono persone che appena vedono sui referti un asterisco vanno in ansia, non si accorgono magari che il valore è fuori norma ma di molto poco. Un'altra cosa, tutti noi abbiamo preso dimestichezza con parole come colesterolo, trigliceridi, di glicemia, ma sappiamo esattamente a che cosa corrispondono? Noi abbiamo fatto una sorta di piccolo sondaggio. Allora sentiamo ad esempio che cosa rispondono alcune persone alla parola glicemia. Vediamo se hanno esattamente capito il significato. La glicemia è indica la presenza di zuccheri sempre nel sangue. La glicemia è praticamente la quantità di zuccheri nel sangue. Una quantità troppo elevata potrebbe portare a diabete. La glicemia non lo so, non te lo so dire. Mi spiace. Per quanto riguarda la glicemia, indica il tasso di zuccheri presente nel sangue. A seconda dei livelli medio-alti di glicemia, la persona può essere esposta a rischio, per esempio, di diabete. La glicemia, invece, sono gli zuccheri contenuti nel sangue? Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. L'ultima volta che l'ho controllato è 2 anni fa. La glicemia è, credo, la concentrazione di zucchero nel sangue. Andiamo al grasso più temuto, andiamo a parlare di colesterolo. Che cos'è il colesterolo? Allora, il colesterolo è una parte cattiva del grasso, diciamo, ed è praticamente pericolosa per le arterie, perché l'accumulo del colesterolo nelle arterie può provocare infarto o ischemia cerebrale. Beh, il colesterolo indica la presenza di grassi nel sangue. Per quanto riguarda il colesterolo indica una presenza, diciamo, un tipo di grassi che ha un'incidenza fondamentale per lo stato di salute di una persona. Quindi una forte presenza di colesterolo nel sangue comporta l'esposizione della persona a determinati rischi, quali la possibilità nel tempo di avere infarti e altre malattie correlate, diciamo, a questo. Il colesterolo penso che sia il grasso, la quantità di grasso che si trova nel sangue. Una sostanza che si trova nel sangue che più o meno ostacola o favorisce il passaggio del sangue, lo rende più o meno fluido, no? Allora, il colesterolo è quella cosa che quando vado a fare gli esami del sangue ce l'ho sempre alto e non capisco mai dove sbaglio. E che dire dei trigliceridi? Un bel punto di domanda, sentiamo. I trigliceridi sono praticamente... fanno parte del grasso? Non so cosa sono esattamente, li leggo solo quando faccio gli esami del sangue. I trigliceridi, per quel che ricordo, sono una, diciamo, esprimono appunto i grassi presenti all'interno del nostro organismo. Per quel che ricordo possono distinguersi grassi tra buoni e cattivi, tra cui rientra in quest'ultima categoria il colesterolo, appunto. I trigliceridi io sapevo che era sono gli zuccheri praticamente, quindi sempre una parte del colesterolo, però gli zuccheri, quindi la parte negativa che si trova all'interno del sangue. I trigliceridi sono la parte cattiva, so che avere i valori alti di trigliceridi può avere degli effetti devastanti. Trigliceridi sono una componente del colesterolo, sempre una componente grassa, quindi una parte cattiva comunque nel sangue. colesterolo, glicemia, trigliceridi. Abbiamo sentito quel che si dice di loro, ma di loro continueremo a parlare oggi. 824 0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. Qui in studio con me oggi il professor Francesco Saverio Dioguardi, professore associato in medicina interna, cattedra di nutrizione clinica all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ne ha sentito delle belle? Sì, anche divertenti. Anche divertenti. Sotto un certo punto di vista. Sui trigliceridi si sono accaniti un po' tutti. Sì, trigliceridi sono una parte importante dei lipidi presenti nel sangue. Ma vede, Nicoletta, quella mi fa specie è questo concetto di buono o cattivo che è attribuito a molecole biologiche. In realtà non esiste niente che sia di per sé buono o cattivo. Trigliceridi e colesterolo sono componenti normali del nostro corpo, indispensabili alla sopravvivenza del nostro corpo. Quando si trovino in eccesso nel sangue possono diventare pericolosi, ma altrimenti è normale che ci siano. Meno male. E anche la glicemia, naturalmente, parleremo anche di lei, che spesso viene un po' trascurata. Le variazioni di glicemia preoccupano un po' di meno, almeno noi, rispetto al colesterolo, su cui siamo più bombardati. Molto interessante questa associazione che lei ha fatto tra glicemia, colesterolo e trigliceridi, anche se l'ha messa per ultima. In realtà forse la glicemia andrebbe messa per prima. Eccessi di introduzione di zuccheri nell'alimentazione possono tradursi sia in aumento di trigliceridi, sia in aumento di colesterolo, e questo magari è una cosa meno conosciuta. Quella signora o signorina che si lamentava di non capire mai che cosa sbagliasse, e nonostante probabilmente non mangiasse grassi, comunque continuasse ad avere il colesterolo alto, probabilmente aveva un eccesso di introduzione di zuccheri. E di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione. Professore, allora lei avrà due compiti essenziali: farci capire quando un valore sballato, fuori norma, deve essere considerato con attenzione perché potrebbe magari rappresentare un rischio, e il secondo obiettivo che vogliamo raggiungere oggi è di ricevere da lei, dai nostri esperti, delle indicazioni, dei suggerimenti, delle strategie per far rientrare i valori nella norma, magari con una semplice correzione dello stile di vita. Dice che ce la faremo? Farò del mio meglio. È molto difficile spiegare il metabolismo, vuol dire la maniera in cui si formano trigliceridi e colesterolo e che cosa significhi lo zucchero nell'equilibrio tra trigliceridi e colesterolo. Nella maggior parte dei casi, se Dio vuole, basta semplicemente mangiare meno e fare attività fisica e si riesce a normalizzare tutto. Il problema è farlo. Voi potete comunque iniziare a fare qualcosa per il vostro benessere. Chiamarci all'824 0024 oppure mandarci un messaggio al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso parliamo di colluttorio. Dopo aver usato con cura spazzolino e dentifricio, aver lavorato di fine con il filo interdentale, un bello sciacquo ed ecco una bocca a prova di bacio. L'alito infatti ci guadagna, diventa più profumato. Ecco perché molti usano il colluttorio per risolvere un problema molto diffuso che è quello dell'alitosi. Ma è corretto, e nel caso, come scegliere il colluttorio a misura del nostro problema? Ne parliamo col professor Weinstein, che è tornato a trovarci, ordinario all'Università degli Studi di Milano e direttore della clinica odontoiatrica presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Professore, i colluttori, come aspetto, possono sembrare tutti uguali, ma in realtà ci sono delle differenze che io credo, ma me lo dica lei, valga la pena di conoscere per poter decidere eventualmente se e quale tipo utilizzare. Che dice? Sono d'accordissimo con lei. I colluttori possono essere divisi idealmente in tre grossi gruppi: un gruppo che esplica degli effetti curativi, e questo si acquista in farmacia; un gruppo che è un sostanzialmente un cosmetico, un qualche cosa che migliora l'alito dopo aver spazzolato i denti; e un gruppo anche di colluttori che sono potenzialmente dannosi per noi, che sono pure in vendita liberamente nei supermercati. Allora, questo aspetto, il colluttorio dannoso, mi ha già incuriosito. Perché sono dannosi e quali sono quelli dannosi? Allora, i colluttori potenzialmente dannosi sembrerebbe essere quelli che contengono elevate percentuali di alcol. Questa elevata percentuale di alcol potrebbe provocare provocare, secondo recenti studi, ne è uscito uno proprio in questi giorni importante, pubblicato in Australia, sembrerebbe provocare dei danni alle mucose anche di carattere molto grave se l'uso è ripetuto. Quindi bisogna leggere bene l'etichetta, professor Weinstein. E vedere di utilizzare colluttori che contengano o bassissimi contenuti di alcol. L'alcol viene utilizzato per sciogliere meglio i vari eccipienti che sono contenuti. E quindi questa è l'unica funzione. Però se il valore sale raggiunge percentuali molto elevate, si può avere un rischio di danno, non un danno sicuro, ma un rischio di danno. Professore, e sono tanti, per tutti coloro che usano il colluttorio per profumare l'alito e quindi per combattere un problema di alitosi, lei che dice, una buona idea? Ci sono un'idea, è come utilizzare il profumo o il deodorante senza lavarsi. Sì. Sì, apparentemente si migliora il problema, ma il problema dell'alitosi è connesso con la presenza di gengivite, cioè di gengive infiammate, e la gengivite può essere contrastata solo con l'uso quotidiano dello spazzolino e del filo e con le visite periodiche dal dentista per ripulire la bocca. Senza considerare, professor Weinstein, almeno anche lo stomaco, no? Ad esempio molte persone che soffrono di reflusso, sì, gastroesofageo, possono avere problemi di alitosi. Certamente, quindi l'indicazione è la percentuale di pazienti che ha alitosi a seguito di patologie o dell'apparato digerente o dell'apparato respiratorio è molto piccola, mentre invece la causa prevalente di alitosi risiede in una cattiva igiene orale. Allora, o si utilizza un colluttorio specifico che contrasta i batteri che sono presenti nel cavo orale, ma che si aggiunge alle manovre di igiene orale, sì, oppure se utilizziamo un colluttorio molto profumato o uno di quelli a base di alcol, facciamo più danno che beneficio. Sì, sostanzialmente è come non lavarsi e mettersi il deodorante. Sente, questo colluttorio specifico a cui lei fa riferimento, che cosa contiene? Sono alcuni, esistono diversi in commercio, i quali associano diversi tipi di disinfettanti, i quali agiscono molto bene sulla flora batterica. Esistono poi colluttori a base di clorexidina, che sono quelli che realmente eliminano la placca batterica, ma che devono essere usati soltanto in determinate situazioni cliniche, cioè prescritti dall'odontoiatra, per esempio dopo un intervento chirurgico del cavo orale, quando il paziente non può esplicare le normali manovre di igiene orale, allora lo sostituiscono. Poi, una volta guarito il paziente, riprende le normali manovre di igiene orale. Quindi, professor Weinstein, al termine di questa nostra chiacchierata, noi colluttori alcolici. Esatto. Noi colluttori per profumare l'alito quando non c'è a monte una buona e regolare igiene orale. Eppure i colluttori vengono molto usati. Quando si possono usare a cuor leggero, quindi, professor Weinstein? Si possono usare a cuor leggero tutti i colluttori che si trovano nei negozi o al supermercato, che contengono bassi livelli di alcol e che rendono più gradevole l'alito dopo essersi spazzolati con grande accuratezza i denti. Si mette un profumo, è la stessa cosa del corpo, ci si può mettere addosso un buon profumo, ma prima bisogna essere passati sotto la doccia. Professore, grazie, le auguro una buona giornata. Anche a lei, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Pronto soccorso. Colesterolo, trigliceridi, glicemia. Oggi guardiamo insieme i nostri ultimi esami del sangue e ne approfittiamo anche per capire un po' meglio che cosa questi parametri rappresentano effettivamente per la nostra salute, quanto sono importanti, quando una loro alterazione è da considerare con attenzione e quando invece non deve preoccuparci più di tanto. Ma soprattutto chiederemo ai nostri esperti di aiutarci, suggerendoci consigli e strategie per farli rientrare nella norma. Ma prima, dato che questi valori vengono rilevati da un esame del sangue, vediamo come ci si prepara ad un prelievo. In linea con noi abbiamo il dottor Vincenzo Saturni, responsabile medico dell'Avis. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi e ai spettatori. Dottore, allora ci sono persone, e sono tante, che in previsione degli esami del sangue stanno a stecchetta per una settimana, 10 giorni, augurandosi che magari i valori, nel caso fossero un po' mossi, rientrino nella norma. Lei che dice? Insomma, diciamo che in linea generale, poi magari anche gli altri esperti lo precisano meglio, noi dovremmo avere un comportamento dietetico e stili di vita tali per cui non dovremmo poi concentrare la nostra attenzione solo prima degli esami del sangue. Sì. Allora, diciamo che, sentiamo nello specifico, ci sono alcuni esami, in particolare la glicemia, che è valuta il tasso di glucosio, di zuccheri nel sangue, sicuramente risentono se nell'immediato prelievo ci sono degli, come dire, abusi di sostanze ricche in zuccheri. Per cui se la persona la sera prima o la mattina del prelievo chiaramente ha ingerito sostanze contenenti una discreta quantità di zuccheri, questo fa aumentare il tasso glicemico e quindi risulta alterato in quel momento. Alterato. E non necessariamente indica una patologia vera e propria. Mentre invece, se noi facciamo riferimento agli altri esami che lei citava, cioè il colesterolo e i trigliceridi in particolare, diciamo che il colesterolo tendenzialmente ha una capacità di accumulo nell'organismo che richiede un po' di tempo, insomma, e il rimanere diciamo a stecchetto, comunque con un'attenzione particolare alimentare, una settimana non sempre è sufficiente, potrei dire purtroppo, a far rientrare nella norma valori che si sono stabilmente aumentati. Un po' diverso invece è il discorso dei trigliceridi, nel senso che i trigliceridi sono un'altra tipologia di grassi che noi possiamo misurare nel sangue. Questi possono invece un pochettino più risentire di disordini alimentari, compresi disordini di quello che si beve, nel senso che anche sostanze alcoliche possono influire anche nel breve periodo nell'aumentare questi valori. Per cui diciamo che lo stare attenti all'alimentazione e anche a quello che si beve sicuramente può incidere positivamente nel far rilevare dei valori normali o comunque bassi di trigliceridi, un pochettino meno per quanto riguarda il colesterolo. Dottor Saturni, per rispondere agli ascoltatori che mi stanno già scrivendo, ma bisogna sempre farlo a digiuno l'esame del sangue, dipende quindi? Sì, dipende da quali sono i parametri da ricercare, nel senso che nel momento in cui noi appunto andiamo a monitorare alcuni parametri come la glicemia, uno dei tipi di enzimi epatici, la velocità di ritrosedimentazione, la VES, possono avere delle interferenze insomma con una colazione o comunque con aver mangiato. Quindi l'indicazione, dottor Saturni, è chiedere al nostro medico: devo andare a digiuno, posso mangiare, sì, fare una piccola, esatto, colazione? Esatto, anche se di solito diciamo che siccome la maggior parte delle volte il controllo comprende anche quegli esami, il medico è molto probabile che consiglierà di andare a digiuno, insomma. Poi sì, ecco, si fa una colazione dopo. Dottor Saturni, sì, lei colazione penso che l'abbia già fatta abbondantemente, sì, a quest'ora. La saluto, la lascio al suo lavoro, buona giornata. Grazie anche a voi, arrivederci. Professor Dioguardi, abbiamo tantissimi sms di ascoltatori che ci dicono: sto a dieta, mangio verdure e pesce, ma il mio colesterolo non scende, faccio attività fisica come mi ha consigliato il medico, non vedo risultati. Andiamo a Vicenza, sentiamo che cosa ci racconta Michelle. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io devo dire appunto la stessa cosa. Un anno fa ho cominciato una dieta di un professore, la dieta del cuore praticamente, quella di un professore chirurgo della Florida, e dove ho eliminato, praticamente ridotto zuccheri, grassi e tutto, e poi ho cominciato una dieta veramente buona, insomma, che comprende frutta, verdura, carne, proteine del pesce, eccetera. Sì. Poi dopo circa 9 mesi così sono andata a farmi gli esami del sangue, ma tranquilla, era più per tranquillissima, pensavo di avere dei valori fenomenali. E invece, Michelle? Invece mi sono trovata col colesterolo alto, molto alto, trigliceridi erano borderline, soffro di pressione alta. Volevo dire che ho perso 7 kg nel frattempo, pertanto sono rimasta molto sconcertata e certo, anche Michelle, molto delusa. E io, allora, continuo a lei continua bene, a comportarsi bene, ma vorrebbe vedere i risultati. ha abbandonato qualche chiletto, ma il colesterolo si è impennato. Grazie Michel, sentiamo il professor Dioguardi come può leggere questa situazione. Allora, ogni qualvolta si modifichi il peso corporeo, bisogna pensare che dal tessuto adiposo i grassi escono, vanno nel sangue e devono essere eliminati. Allora, mentre gli acidi grassi e i trigliceridi, che sono i stretti parenti, possono essere, metto tra virgolette, bruciati dal cuore, dal fegato e dai muscoli facendo attività fisica, il colesterolo non può essere eliminato bruciandolo. Il colesterolo è una molecola molto complessa, serve per fare le membrane delle cellule, quindi è indispensabile per la nostra vita. Viene prodotto dal fegato e il fegato, per capire quanto ne debba produrre, legge quanto noi ne introduciamo. Nel momento, soprattutto alcuni pazienti particolarmente sensibili alle variazioni alimentari del colesterolo, hanno un fegato che, se gli viene tolto del tutto, reagisce aumentando la sintesi. Quindi? Si spaventa che manchi colesterolo di colpo introdotto con gli alimenti. Reagisce producendone di più. Il tempo, pian piano, regolerà in questa paziente, con la stabilità del peso e mantenendo abitudini alimentari corrette e facendo attività fisica, io questo insisto moltissimo, dovrebbe riportarla alla normalità. Quindi bisogna insistere, perseverare. Colesterolo, trigliceridi, glicemia. Questi sono i protagonisti della puntata di oggi. Insieme a noi il professor Francesco Saverio Dioguardi. E 824-0024 è il numero per avere un suo parere riguardo ad un'alterazione di questi valori. Potete come sempre mandarci i vostri messaggi al 349-238-6666. Io però ho in linea il professor Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Eccoci qua, ormai buongiorno. Non mi viene neanche più, cioè mi viene subito da dire influenzologo, perché adesso finalmente, diciamo finalmente, così una volta che arriva poi se ne va e c'è il picco dell'influenza. Quando passerà questa influenza? Che siamo, ne parliamo da settembre. Una fase espansiva, perché anche le previsioni appena citate evidenziano condizioni meteo che faciliteranno un ulteriore incremento. Siamo ai livelli massimi rispetto allo scorso anno, ma ancora una settimana, 10 giorni, e poi avremo la curva che cresce, però l'influenza continuerà a tenerci compagnia fino alla fine del mese di febbraio, e quindi la stagione, come si era detto all'inizio dell'autunno scorso, è abbastanza intensa, con forme sia di vera influenza ancora appunto in crescita, ma anche sindromi simili influenzali da non trascurare. Allora, ripetiamo ogni volta i consigli per chi dall'influenza vuole stare alla larga. Professor Pregliasco, non è facile. Non è facile. Le norme di buon senso che spesso si dimenticano, tra cui quella più semplice, quella del lavarsi frequentemente le mani, ma soprattutto un'attenzione ai momenti di sbalzo termico. È lì il momento di passaggio dall'autovettura col condizionatore all'aperto, dove il virus più facilmente ci colpisce. Quindi non è l'esposizione al freddo, ma questi momenti di cambiamento climatico che sono veramente facilitanti. Quindi attenzione a questo, e non è detto che si scampi, però almeno si limitano i danni. Professore, però insomma devo dire che ormai ci togliamo febbraio e poi l'influenza la salutiamo. Mi piace vederla in positivo, meglio affrontarlo, no, il nemico, direi, così direi, poi direi, si saluta. Direi così, per una stagione abbastanza intensa, ma come si era adesso detto non particolarmente stravolgente. Importante anche questo risultato legato a una quota di maggior numero di vaccinati tra i soggetti a rischio, cosa che negli scorsi anni c'era stato un po' di affezione e disamore. Quest'anno non abbiamo ancora i dati complessivi, ma le prime statistiche dicono appunto che i soggetti a rischio si sono vaccinati di più. Professor Pregliasco, qualcosa mi dice però che ci sentiremo presto. A presto davvero, e buona influenza ancora a tutti per quello che rimane. Professor Dioguardi, affrontiamo questo colesterolo. Sappiamo che c'è il colesterolo totale, c'è quello buono e c'è quello cattivo. Diciamo due parole su queste differenze. Allora, il colesterolo, io vorrei ribadirlo, di per sé non è né buono né cattivo. Il medico chiede giustamente di sapere in che parti sia diviso il colesterolo nel sangue, ovvero il colesterolo viaggia attaccato a delle proteine dal tipo di molecole che si formano, di particelle che si formano nel sangue, noi le distinguiamo in HDL, che vuol dire proteine ad alta densità, che impropriamente o almeno in parte impropriamente chiamiamo colesterolo buono, e in LDL, low density, a bassa densità, che impropriamente chiamiamo colesterolo cattivo. Perché? Perché noi sappiamo epidemiologicamente, vale a dire su grandi numeri, che più sono alte le HDL, minore è il rischio di avere infarti o ictus. Più sono alte le LDL, più aumenta il rischio di avere infarti e ictus rispetto alla popolazione normale. Poi ci sono persone che hanno alte sia le LDL che le HDL e quindi hanno un fattore di rischio ancora aumentato, differente, e quelli che hanno basse entrambi e anche questi hanno un rischio di fattore, un fattore di rischio aumentato, e hanno un significato particolare anche queste situazioni. Ci sono però persone, e l'abbiamo sentito dalla nostra ascoltatrice, e stanno arrivando tantissimi messaggi, che di fronte a un'alterazione del colesterolo fanno una dieta, rinunciano a una dieta, a alimenti più ricchi di grassi, ma i risultati non li vedono. Come mai? Allora, la quota di colesterolo nel sangue legata alla introduzione è relativamente ridotta, 20-25%, per cui facendo anche il massimo dei sacrifici, togliendo cioè completamente il colesterolo dall'alimentazione, la riduzione percentuale è di un quarto, molto, moltissimo addirittura in certi casi, però talvolta non sufficiente. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che esistono pur ridotto, una percentuale però numerosa di persone nella popolazione totale, la quale se toglie completamente il colesterolo ha come risposta da parte del fegato un'aumentata sintesi. Come abbiamo spiegato prima. Il che vuol dire ci sono due componenti, una alimentare e una di sintesi. Allora, tutto quello che noi mangiamo e non venga consumato a scopo energetico o per costruire, purtroppo va a finire in grassi e sono o trigliceridi o colesterolo. Qual è la differenza principale tra il cosiddetto colesterolo buono e quello cattivo, cioè tra HDL ed LDL? Le HDL contengono quasi unicamente colesterolo, le LDL contengono molti trigliceridi e meno colesterolo. Anche i trigliceridi sono pericolosi per l'aterosclerosi. Certo, e i valori che devono avere quali sono? Allora, esistono degli standard internazionali. Gli asterischi famosi indicano, e per ogni laboratorio e per fasce di età sarebbe più corretto fare così, quali siano i valori alterati. In realtà nella nostra vita noi partiamo bassi, raggiungiamo un certo livello di HDL e poi queste tendono a scendere perché l'efficienza del nostro corpo tende a scendere, e intestino e fegato, che sono gli organi che producono le lipoproteine, cioè le proteine che formeranno le HDL, purtroppo diventano più pigri invecchiando. Quindi 45-50 di HDL colesterolo è un valore ottimale, sotto i 30-35 bisogna fare un po' di attività fisica. Bisogna fare un po' di attività fisica. Parleremo anche di questa dieta in qualche modo per vedere come bisogna mangiare. Abbiamo in linea con noi Maria da Taranto, e poi vorrei parlare di quei prodotti che vengono offerti per abbassare il colesterolo. Ci raggiungerà tra poco il professor Lorenzo Morelli, quindi Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie di avermi richiamato. La mia domanda è proprio rispetto soprattutto ai più che ai prodotti tipo yogurt vari, proprio di fronte alle stamine, cosiddette stamine. Vi spiego, io... Sì, sarebbero le statine, vero? Anni. I farmaci, le statine, Maria. Sì, esatto. Io ho appena 49 anni e proprio la settimana scorsa la mia endocrinologa mi ha detto che è arrivato il momento di prendere questa famosa pilloletta. Sì. La mia domanda è, io soffro già di reflusso gastroesofageo, quindi sono in una dieta particolare. Sì. La dovrò prendere a vita questa pillola? La pillola per il colesterolo. Maria, chiediamo al professor Dioguardi, quando si deve intervenire con un farmaco, professore? Quando la dieta non dà risultati, quando l'attività fisica, per quanto regolare, mirata, costante, non riesce a buttare giù, o ci sono delle altre condizioni che suggeriscono l'utilizzo dei farmaci? Allora, esistono delle regole. Chiunque può andare sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e scoprire che esiste un algoritmo, cioè un modello matematico molto facile da compilare, peraltro, il quale gli dice se abbia indicazione o meno a prendere la terapia con le statine. Sì. Tra altre cose, gratis, in questa, se rientrasse in questo tipo di categoria. Le statine, bisogna rivolgersi al proprio medico, che certo, è in grado di fare questi calcoli molto facilmente. Esistono diversi elementi di giudizio. Certamente bisogna, il farmaco è l'ultima risorsa, bisogna prima cercare di correggere le abitudini alimentari, perdere peso, fare attività fisica, come giustamente hai detto. Le statine andrebbero riservate ai pazienti che hanno dei valori di colesterolo sopra il 240, tanto per dare un numero che poi però ogni caso fa se, certo. Ovviamente se un paziente anche con valori minori avesse però complicanze severe, tipo avesse placche aterosclerotiche nelle carotidi, avesse insomma lesioni e fosse giovane, beh, vuol dire che c'è qualcos'altro e quindi il ricorso ai farmaci, questo è giustificato. Sì. Tornerei ai prodotti che vengono raccomandati per la loro azione anticolesterolo. Si trovano un po' in tutti i supermercati nel reparto alimenti refrigerati. Vengono vendute nelle classiche bottigliette. L'offerta, lo sappiamo, è ampia e credo che, almeno a me succede così, la varietà mi genera sempre un po' di confusione. Allora ho chiesto al professor Lorenzo Morelli, professore di microbiologia all'Università Cattolica di Piacenza, di venire a darci una mano. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Professore, anche il supermercato vende alimenti che vantano proprietà benefiche per la nostra salute. Allora, andiamoci insieme e guardiamo questi prodotti che sembrano tutti uguali, ma hanno delle differenze sostanziali. Yogurt, probiotici, a cui si aggiunge una nuova categoria, i cosiddetti alimenti nuovi. Si chiama proprio così, professore? Sì, c'è una legislazione europea che li chiama novel foods e quindi traduciamo giustamente con alimenti nuovi. Ma io mi fermerei un po' sulle mitiche bottigliette, no? Ecco, che hanno fatto la comparsa una decina di anni fa. Ecco, delle bottigliette in realtà sembrano tutte uguali, ma non lo sono, e ne troviamo tre tipi. Diciamo, quelle storiche, quelle più antiche, quelle che sono comparse prima, sono in realtà dello yogurt diluito, lo yogurt da bere. Sì. È sostanzialmente uno yogurt a cui è stata aggiunta un po' d'acqua, insomma, sì, niente di particolare. Okay. Poi ci sono i probiotici, sto andando in ordine, diciamo, di comparsa sul mercato, sì, in ordine di vecchiaia. Ecco, i probiotici sono sostanzialmente dei latti fermentati, qui però sono stati aggiunti dei batteri particolari che hanno delle caratteristiche che sono state studiate clinicamente per, che so, favorire il tempo di transito intestinale, per aumentare le difese immunitarie. Oggi tra l'altro esiste, oggi dal 2006, dal dicembre 2006, una legislazione europea che sottoporrà tutte queste affermazioni alla verifica da parte dell'autorità europea sulla sicurezza alimentare, quella che si viene chiamata EFSA e dalla sede tra l'altro qui in Italia a Parma, sì, per vedere se sono veritiere o meno. Poi però abbiamo la terza e ultima categoria, che è quella che interessa la trasmissione di stamani, che invece sono alimenti nuovi. Ecco, si presentano, sembrano degli yogurt, ma non hanno niente a che fare con gli yogurt. Alcune aziende hanno scelto di veicolare queste sostanze, di cui fra poco parlerò, in un latte fermentato, ma è semplicemente una scelta, diciamo, aziendale. Ecco, questi alimenti nuovi contengono delle sostanze estratte dalle piante, sì, che hanno una struttura terribilmente simile a quella del colesterolo presente negli alimenti. Eccoci, siamo tornati insieme. Allora, occupiamoci di questi alimenti nuovi che riducono il colesterolo. Professor Morelli, che cosa li rende terapeutici e come funzionano? Ne ha già dato un accenno, ma... Allora, terapeutico direi che una parola è un forte, po' eccessivo. Sì. Diciamo che servono, io ho sentito il professore prima giustamente dire che in realtà il colesterolo che ingeriamo con gli alimenti è solo una piccola frazione del problema colesterolo, e servono comunque a intervenire in questa parte qui. Sostanzialmente queste bevande, sì, contengono di queste sostanze simili al colesterolo animale e vanno a ingannare il nostro intestino, sì, saturando, prendendo il posto del colesterolo, vanno a saturare i recettori, cioè quelle porticine che le nostre cellule intestinali hanno e attraverso cui fanno passare il colesterolo alimentare. Quindi lo confondono in qualche modo. Lo confondono e quindi sostanzialmente non viene assorbito e poi verrà eliminato. Chiaramente hanno un'efficacia assolutamente verificata, sì, perché questi alimenti sono stati oggetto di una specifica autorizzazione da parte dell'Unione Europea per una direttiva del 1997, inutile entrare in dettaglio, certo. Quello che viene detto è stato vero, assolutamente verificato e misurato. Professore, ci sono dei momenti della giornata in cui è meglio assumerli a digiuno, dopo pranzo, prima di pranzo, quanto, una volta al giorno, tutti i giorni, per quanto tempo, poi si smettono? Istruzioni per l'uso. Allora, se parliamo degli alimenti nuovi con questa efficacia di riduzione dell'assorbimento del colesterolo, dovrebbero essere assunti in prossimità del pasto, proprio perché magari leggermente prima o contemporaneamente, perché devono andare a confondere questi recettori. Sì. Se parliamo di probiotici classici, è meglio assumerli a stomaco vuoto, perché in questo modo transitano più velocemente nello stomaco, che per il transito dello stomaco è un po' un problema per i batteri, e quindi riescono ad arrivare in più alto numero all'intestino. Professore, grazie per essere stato con noi e per la sua chiarezza. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Professor Dioguardi, quando abbiamo parlato di statine mi ha richiamato subito la nostra ascoltatrice con un messaggio, ma non ci eravamo dimenticati di lei. Allora, chi prende le statine? Deve prenderle per tutta la vita oppure può interrompere quando i valori di colesterolo tornano nella norma? Allora, interrompere le statine è un errore quando vi sia necessità di assumerle. Sì. Perché l'effetto della statina dura quanto la statina. Sì. Per dire, la statina è un regolatore della sintesi del colesterolo nel fegato, riduce la sintesi. Nel momento in cui si sospende la statina, la sintesi del colesterolo riprende pian piano, i valori di colesterolo ritornano come quelli di prima. Non è che sia obbligati o sia una schiavitù, altrimenti è il problema che dose, effetto. Giovanna ci chiama da Ferrara, 824 0024. Giovanna? Sì, sono qua. Qual è il valore che la preoccupa? Il valore che mi preoccupa è soprattutto quello dei trigliceridi, perché sono altissimi. Altissimi? Perché dice altissimi, Giovanna? Quanto ci racconti? Anche sopra i 1000. Sopra? Sopra i 1000. Allora, e il colesterolo come va? Il colesterolo, quello cattivo è alto e quello buono è basso. Giovanna, è alto 230, 235, ecco. Senta Giovanna, lei cosa fa? Ha cercato un po' di tarare un po' meglio il suo stile di vita, di mangiare meglio, di fare attività fisica? Ho cercato. Anche preso le statine, alle quali sono risultata praticamente immune. Era come bere dell'acqua fresca. Come acqua fresca. Giovanna, noi non la sentiamo tanto bene come voce, ma abbiamo capito le sue indicazioni e la sua domanda mi permette di chiedere concretamente al professor Dioguardi. Abbiamo capito che una parte di colesterolo arriva con l'alimentazione, ma una piccola parte, l'altra ce lo produciamo noi, che il colesterolo è essenziale perché insomma ce l'abbiamo, a qualcosa serve, ce lo dobbiamo tenere, ma sappiamo che se cresce troppo il suo valore diventa un problema. Sulla dieta possiamo interferire in qualche modo aggiustandola? C'è una dieta che in qualche modo anche nei tempi lunghi riduce i valori del colesterolo? Allora, la regola generale è mangiare solo quello che ci serve. Quindi la regola più importante è rispettare il quantitativo totale di calorie che ci servono e non superarlo mai. Noi mangiamo tutti troppo, siamo tutti troppo grassi. L'attività fisica serve a consumare di più. Sì. Se mangiassimo anche di meno, spesso riusciremo a quadrare il cerchio, cioè a ottenere il risultato ideale. Però la signora ci ha posto un quesito che è interessante. Trigliceridi molto alti, HDL basse, LDL alte, cioè colesterolo cattivo alto, colesterolo buono basso. Uno dei quesiti in questa paziente, la signora non ce l'ha detto, è come stia la glicemia. Spesso situazioni di questo genere corrispondono a quella che viene chiamata adesso sindrome metabolica, e spesso questi pazienti hanno diabete, cioè la glicemia molto alta. Quindi sono tutti questi valori che vanno considerati, sì, perché questo ci dà lo spunto per sottolineare ancora una volta che una rondine non fa primavera, professor, sì, Dioguardi, nel senso che se io vado per caso a fare gli esami del sangue, non si va per caso ma ce lo dice il medico, e notassi un valore evidenziato molto alto, prima di preoccuparci si rifanno gli esami, si va a vedere, e poi comunque quel dato deve essere misurato e inserito in un contesto, quindi considerando anche altri valori. È questo, no, che dobbiamo sottolineare? Assolutamente. Un dato fuori dalla norma richiede di occuparsene, non di preoccuparsene. Per esempio, un paziente che dimagrisce, è facile che abbia trigliceridi molto alti, per i motivi che abbiamo detto. Dimagrire significa togliere grassi dal tessuto adiposo. E il nostro organismo dice, oibò. Professore, parliamo anche della glicemia, spesso trascurata, no? Almeno ci fa meno paura del colesterolo, lo vedo anche dai messaggi. Che cosa ci indica invece? Sappiamo che se i livelli sono molto alti si può far sospettare un diabete, ma quando la glicemia è un po' ballerina, che cosa dobbiamo pensare e quali indicazioni dobbiamo seguire? Ecco, questa è una delle cose più importanti che la medicina moderna sta acquisendo. Tutte le volte che si abbia un valore di glicemia al di fuori della norma, cioè? Anche per poche unità, secondo dei laboratori va da 100 a 110, diciamo un 112 o un 108, bene, è opportuno andare dal medico e farsi spiegare quali sono i possibili fattori di rischio. Il diabete di tipo 2, cioè il diabete non legato alla distruzione del pancreas e delle cellule che producono l'insulina, è una malattia subdola, impiega 20-30 anni a comparire in maniera aperta, cioè con la glicemia sopra il 125 che allarma il medico e fa fare diagnosi di diabete. Esistono quindi molti anni in cui attenzione a piccole variazioni della glicemia può permettere correzioni che sono fruttuosissime nel proseguo della correzioni vita. Di che tipo? Sempre dietetiche? Inizialmente dietetiche, sempre stile di vita, l'attività fisica, non finirò mai di dirlo, ed eventualmente farmacoterapia nel momento in cui fosse necessario. In alcuni messaggi, abbiamo un minuto, ma vorrei che lei mi rispondesse per i nostri ascoltatori. Alcuni ascoltatori mi scrivono: è normale averla sopra i valori alla mattina, e perché mi scende dopo pranzo? Cioè, variazioni della glicemia in ore particolari della giornata hanno un senso per un medico oppure no? Dovrebbero averlo, e avere la glicemia alta al mattino a digiuno è una delle condizioni che deve far suonare un campanellino d'allarme. Può essere dovuta anche a fatti puramente fisiologici. Uno va di corsa a fare il prelievo, la corsa alza la glicemia. Quindi attenzione a come si fanno i prelievi. Andate a digiuno e riposarsi 10-15 minuti prima di fare il prelievo. Allora, professor Dioguardi, intanto la saluto e la ringrazio per essere stato con noi, e io vi saluto con il nostro consiglio di lettura. Andiamo. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa 100 risposte sul colesterolo, un libro che abbiamo scelto proprio per la puntata di oggi. Naturalmente, per riceverlo a casa dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E per oggi è davvero tutto, rimaniamo come sempre a vostra disposizione, esserebenessere@radio24.it. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, non mancate.